In fondo a Via Indipendenza, all'incrocio con Via Rizzoli, c'è un edificio che un tempo apparteneva alla famiglia Scappi e che infatti ancora incorpora la torre duecentesca omonima. Ricordate la vicenda della donna che riconobbe Re Enzo in fuga e si mise a strillare "Scappa"? Ecco, secondo la leggenda, lei fu la capostipite della casata. Una curiosità. Alla base della torre c'è il celebre Bazar La Coroncina, il negozio più antico di Bologna, nato come bottega di articoli religiosi nel 1694. Attualmente l'edificio si chiama Casa Stagni, dal cognome dell'ultimo proprietario, che la fece restaurare da Augusto Sezzanne alla fine dell'Ottocento. Questo angolo della città è chiamato Canton dei Fiori, perché un tempo erano presenti alcune botteghe di fiorai. Alzando lo sguardo alla volta del portico di Casa Stagni, noterete la scritta in latino Panis Vita, Cannabis Protectio, Vinum Letizia, la cui traduzione è «Il pane è vita, la cannabis è protezione, il vino è allegria». È dunque il Canton dei Fiori la meta del terzo dei sette segreti di Bologna, ma quanto scritto sulla volta non è un'apologia delle droghe leggere, bensì un elogio di ciò che in passato costituiva una delle più redditizie attività di Bologna, la lavorazione della canapa. La pianta, originaria dell'estremo oriente ma coltivata in Europa già dal V secolo a.C., era utilizzata principalmente per produrre carta, oli e stoffe. Proprio nella nostra penisola, con l'espansione delle repubbliche marinare, ci fu un vero boom della canapa, perché ci si ricavavano le corde e le vele per la navigazione, che continuò fino alla fine dell'Ottocento, periodo in cui l'Italia si affermò come il secondo produttore mondiale di canapa, al punto da diventare il principale fornitore della Marina Britannica. All'epoca, Bologna e Ferrara erano tra le maggiori produttrici di canapa della penisola. Tra i pregi della canapa c'è la sua economicità e l'estrema adattabilità a ogni tipo di terreno, anche quelli paludosi, scoscesi o umidi, in cui ogni altra coltivazione risulta difficoltosa. A partire dall'inizio del Novecento, le nuove tecnologie di navigazione, motore a vapore e a scoppio, e quindi la conseguente minor domanda di vele, l'affermarsi di nuove fibre tessili economiche come la juta e il cotone, l'impiego del legno per produrre la carta e infine la classificazione della canapa come sostanza stupefacente causarono un lento e inesorabile declino di questo tipo di coltura, che fino agli anni 50 del secolo scorso aveva fortemente caratterizzato la nostra penisola. Va precisato che le normative europee non vietano espressamente la coltivazione della canapa industriale, priva di effetti psicotropi, e infatti si è assistito, negli ultimi anni, a una, seppur timida, ripresa della produzione nell'ambito di un crescente interesse nei confronti delle materie prime naturali, analergiche, ecologiche. Uguaglianza e libertà.